ladro, prendimi. Sono senza premilico. Se mi vuoi ancora qui, tu prendimi se cadrò. Fidavo di te solo, litigavo per chi sono. Li giravo in faccia a chi mi dava l'aria di sfottere facca loro. Prima non stavo mai in coro, mi facevo mille casse. Li da solo se rinchiudo me non ragiono. Mi manderei tutto come se fosse un gioco ma non lo è fra. Lei vuole farmi andare in tutta la testa, in tilt è tutta la testa. Lei vuole ma mica è detto che ci riesca. Mica è detto che ci riesca. Vuole mie perché so ciò che le resta. Pensa che cosa fa se per un po' cosa senza. Io la voglio ma non sto capendo se mi blefa. Pure questa bestia me lo fa pensare. Se cadrò prendimi, se non sei sempre mi dico. Se mi vuoi ancora qui, tu prendimi se cadrò. Se cadrò prendimi, se non sei sempre mi dico. Vertigini, se guardi sotto non respiri. È dove sperano che finisca i miei nemici. Perdo troppo tempo in giri di parole stente a capirmi. Io non so come potrai sentirmi se non ho voce. Ma ogni idea, non come te che copi, omi come te sono a marea. Ciao, ce ne sono a marea. Come cazzo fare stare così, boh. A me piace creare. Come cazzo fare stare così, boh. Please, se cadrò prendimi, se non sei sempre mi dico. Se mi vuoi ancora qui, tu prendimi se cadrò.